non è obbligatorio essere vegetariani per amare la pace. Il mondo è pieno di persone pacifiche, di uomini e donne come me e voi, che mai si sognerebbero di torcere un capello agli altri e non sopportano la vista di una goccia di sangue, sia pure versata a fini chirurgici o terapeutici, e che pure si sentano autorizzati a torto o a ragione a banchettare con le spoglie dei nostri fratelli animali, senza lasciarsi nulla turbare dall'idea della macellazione e delle altre sgradevoli procedure a cui quegli involontari fornitori di proteine devono essere sottoposti. La contraddizione forse è meno grave di quanto sembri, perché la straordinaria capacità di categorizzare e ricategorizzare che caratterizza la nostra vita mentale fa sì che nella coscienza quotidiana la carne che si compra per uso alimentare sia tutt'altra da quella di cui è composto il nostro corpo, per cui l'idea stessa di morte, che tanto ci turba in relazione a noi e ai nostri cari, ci appare sopportabilissima se riferita a quelle creature cui nessuna religione finora ha concesso un'anima. Ma la contraddizione merita lo stesso di essere evidenziata. Anche se i pastori che s'affollavano a Betlemme non allevavano certo le pecorelle per risparmiare loro i disagi della vita selvatica, il beccaio con il suo coltellaccio non è esattamente la figura che, sia pure in questi tempi duri, qualcuno collocherebbe nel presepe. Pace e macelleria, insomma, non sembrerebbero concetti semanticamente contigui. Pure a Milano una macelleria dedicata alla pace c'è. Non la frequento di persona, anche perché senza essere vegetariano di carne ne mangio ormai poca, ma è ubicata qui a due passi della radio. Ci passo davanti tutte le volte che vengo in redazione. È un negozietto a una sola luce, dall'aria abbastanza dimessa, come capita ancora nei quartieri non proprio centrali, e non ci avrei mai badato probabilmente se non fosse stato per quel nome insolito. Si chiama proprio così, macelleria rosticceria alimentare La Pace. E che la denominazione non intenda il termine in senso generico, né alluda alla pace dello spirito o a quella dei sensi, è garantito dalla presenza nel corpo dell'insegna della bandiera a strisce multicolori del movimento contro la guerra. I titolari, chiunque si siano, non hanno voluto che ci fossero dubbi sulle loro opzioni ideologiche. Per la pace sono, e che siano per la pace hanno voluto che si sapesse. Il che me li rende piuttosto simpatici, anche se non li conosco. Non li conosco, ma una cosa su di loro posso dedurla. Non devono essere questi miei e vostri compagni di strada dei milanesi purissimo sangue. Il loro negozio, normalissimo nell'aspetto, ha una particolarità, diciamo così, culturale. È una macelleria islamica, come se ne trovano ormai parecchie nella zona in cui sono insediate le famiglie degli immigrati maghrebini. L'insegna è bilingue, metà in italiano e metà in arabo, e in arabo sono un paio di scritte sulla vetrina. Io non so leggere quella lingua, purtroppo, ma mi arrangio con il suo alfabeto quanto basta per decifrare almeno la parola in caratteri grandi posta accanto alla bandiera. C'è scritto proprio Assalam, la pace, un termine che nel mondo arabo si usa anche come un augurio e un saluto. Augurio e saluto che evidentemente i titolari dell'esercizio hanno voluto rivolgere anche alla nostra città che vi ospita. E di questa intenzione, di cui sono grato, beh, è un'intenzione che mi ha confortato parecchio. Beh, mi direte che c'è di strano. Anche gli immigrati arabi, come la maggior parte dei nostri concittadini, amano la pace. E molti di loro devono aver capito che in nome del relativo ideale ci si può e ci si deve organizzare, il che spiega non solo la scelta del nome, ma anche la decisione di illustrarlo con la bandiera, che è un riferimento, mi sembra, più pregnante della solita colomba, del solito ramoscello d'ulivo. Il che è vero. Ma una cosa, lo ammetterete, essere pacifici e pacifisti a casa propria, e una cosa essere in un ambiente, se non del tutto ostile, beh, certo poco propenso ad accogliere e far proprie le esigenze della multiculturalità, come ormai è diventata la città in cui abitiamo. E non solo quella, diciamolo pure. Anche la regione in cui abitiamo, che pure ha la non piccola responsabilità di aver dato origine al primo partito politico nato con il programma primario di tenere al loro posto gli immigrati interni ed esterni. E neanche il paese in cui abitiamo in generale. Basta guardarsi intorno per vedere che in Italia, dal punto di vista del rispetto dell'identità altrui, tira una gran bruttaria. E non soltanto perché la Consulta ha deciso giorni fa che non ci sono problemi nell'esposizione indiscriminata del crocifisso negli uffici pubblici e nelle scuole, o perché il ministro dell'istruzione ha esortato con apposita circolare i direttori didattici che ancora non l'avessero fatto ad allestire senza indugio il presepe. La maggior parte degli immigrati probabilmente non ha niente contro il crocifisso. Temo che dia fastidio più a me che a loro. E giurerei che ai loro bambini, come a tutti i bambini, non spiace affatto il presepe, per il quale, forse per un residuo di infantilismo, ammetto davvero un debole anch'io. Ma tutti loro sono sicuramente vessati da una legge iniqua che rende inutilmente complicati i loro rapporti con l'autorità e devono sperimentare ogni giorno sulla propria pelle le diffidenze e l'ostilità di una società che ha bisogno del loro lavoro ma non intende pagare il prezzo relativo. Non sarà un caso, no? Se l'aggettivo islamico, invece d'essere usato per definire con il dovuto rispetto un'identità culturale e religiosa, si impiega di solito come aggravante del termine terrorismo. E se un'importante casa editrice propone solo per il periodo natalizio, in offerta speciale ai lettori, la trilogia di Oriana Fallaci in cofanetto e ne fa pubblicità dappertutto, e se il capo del governo, in vista d'ossequio a Bush, afferma una volta di più la volontà di affiancare quel tristo figuro nelle sue attività d'occupazione di guerra, e se un membro responsabile del governo cittadino in questa nostra civile Milano commenta la notizia della giovane nomade tagliata in due mentre cercava di prelevare un vestito usato da un cassonetto, dicendo che è inutile fare pietismi, e così via. Gli esempi sono infiniti e ciascuno può trovare i suoi. Ma in questo clima, non esattamente festevole nonostante il calendario, qualsiasi segno di pace mi sembra degno di nota. Per questo vi ho detto che quell'insegna, per quanto vagamente incongrua, per quanto non del tutto al suo posto, un poco mi ha confortato e mi conforta. Fate come me, prendetela per un augurio. Pace in terra agli uomini di buona volontà, no? Come dicevano quei tipi con le ali d'aureola ai pastori in visita alla mangiatoia. (Susurra)